Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Le bandiere saranno a mezz'asta nelle sedi delle istituzioni europee per i prossimi 3 giorni. Anche l'Europa ha deciso un segno di cordoglio per la morte di Nelson Mandela. È stato un simbolo nella lotta al razzismo e una delle più grandi figure politiche dei nostri tempi. Con queste parole il Presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy e il Presidente della Commissione José Manuel Barroso hanno ricordato il leader sudafricano scomparso. L'Africa perde suo padre, il mondo un eroe, ha commentato a sua volta il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz. Intanto oggi occhi puntati su quella che a Bruxelles è stata definita la riunione segreta e ristretta a Berlino sull'unione bancaria, con Commissione, BCE e ministri delle finanze unicamente dei paesi più grandi dell'area euro, tra cui l'Italia. L'invito è arrivato da parte del ministro dell'economia tedesco, ha precisato un portavoce della Commissione europea durante la conferenza stampa di metà giornata a Bruxelles. A rappresentare la Commissione ci sarà il responsabile del mercato interno, il francese Michel Barnier. Europa che fa il punto intanto sull'immigrazione. Sono approdati infatti sul tavolo dei ministri della giustizia e affari interni i risultati della task force per una strategia europea dopo il naufragio di Lampedusa. La tragedia di Lampedusa produce i primi effetti tangibili in vista del Consiglio europeo di dicembre. La commissaria agli affari interni Cecilia Malmström ha presentato ieri a Bruxelles una serie di proposte basate sui suggerimenti della Task Force per il Mediterraneo. In sintesi, le aree d'azione nelle quali si propone di migliorare il coordinamento comunitario sono rafforzamento della sorveglianza, moltiplicazione e migliore coordinamento dei pattugliamenti nel Mare Nostrum, potenziando la capacità di localizzazione dei barconi di migranti in pericolo. L'obiettivo finale è la creazione di una rete europea di pattugliamenti in mare comprendente sia quelli nazionali che quelli di Frontex sulla base di una piattaforma comune da Cipro alla Spagna, concentrandosi sulle principali rotte migratorie. La Commissione stima un costo aggiuntivo pari a 14 milioni di euro l'anno. La nuova strategia utilizzerà anche il nuovo sistema Eurosur, operativo da pochi giorni. Un capitolo riguarda da vicino l'Italia. Bruxelles propone di sostenere con 30 milioni il nostro paese in quanto tra i più esposti ai flussi. Altri 20 milioni andrebbero agli altri stati membri per migliorare le capacità di accoglimento di migranti e per il trattamento delle domande d'asilo. Soddisfazione da parte del vice premier Angelino Alfano sui progressi della task force. Alfano ha però chiuso le porte all'idea di visti umanitari. Non possiamo accogliere tutti, ha detto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in arrivo dall'Europa ci sono i fondi per la cultura. Il Consiglio europeo ha approvato il programma Creative Europe, che nel prossimo bilancio 2014-2020 stanzia 1,46 miliardi di euro, il 9% in più rispetto ai 7 anni precedenti, per cinema, TV, musica, teatro, ma anche per progetti per la conservazione del patrimonio culturale. Corruzione in Europa, anche Bruxelles non è esente. Non sono tra i più corrotti al mondo, ma qualche problemino ce l'hanno anche loro. Sarà a causa della crisi economica, ma la mancanza di trasparenza e gli affari poco puliti riguardano anche i paesi europei. E in modo serio, scrive l'organizzazione non governativa Transparency International, che questa settimana ha pubblicato il suo indice annuale di corruzione. 7 paesi UE su 28, e dunque un quarto, hanno un indice inferiore a 50, che significa seri problemi di corruzione. Il paese più corrotto in Europa è la Grecia, che si colloca all'80° posto nella classifica mondiale, i più virtuosi invece come sempre Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia. E non è solo una questione interna, le stesse istituzioni europee infatti secondo l'associazione sono chiamate in causa. Il punto è che nonostante ci sia la consapevolezza che la corruzione costi in termini economici, poco si fa per combatterla. Pochi progressi, la situazione stagnante, dice Carl Dolan, direttore di Transparency International. Non è cambiato nulla negli ultimi 10 anni e tutto questo nonostante ci siano molte leggi anticorruzione. Ciò che manca è la volontà politica di applicarle, di dare un seguito, di perseguire corrotti. Quindi direi che in alcuni paesi c'è ancora una cultura dell'impunità riguardo la corruzione. A culture of impunity as regards corruption. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'Europa un buon fine settimana. Europa 24 torna come sempre lunedì alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.